Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City. Nel film La macchina del tempo, non so se l'avete mai visto, il protagonista scienziato attiva il meccanismo e osserva il mondo cambiare vorticosamente intorno a sé mentre appunto viaggia verso il futuro o verso il passato. C'è un dettaglio però di cui la scena non tiene conto, cioè del fatto che il livello del terreno non rimane affatto costante col passare dei secoli. Insomma, il nostro viaggiatore avrebbe potuto benissimo materializzarsi sottoterra a qualche metro di profondità oppure a vari metri di altezza. Vi racconto questa storia perché questa sera andiamo a Padova per parlare di uno studio pubblicato su Geoarcheology, una nuova disciplina, nuovo termine da immagazzinare, uno studio pubblicato da un team di ricercatori dell'Ateneo Cittadino che permette proprio di ricostruire in modo dettagliato secolo dopo secolo la morfologia del terreno a seguire delle attività umane e dello sviluppo dell'insediamento. Insomma, di vedere la Padova sotterranea senza bisogno di scavare un granello di terra. Ci facciamo spiegare tutto dal professor Paolo Mozzi, che è professore associato di geografia fisica e geomorfologia del Dipartimento Geoscienze dell'Università di Padova. Benvenuto, buonasera Mozzi. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Sì, il risultato della nostra ricerca è proprio una serie di chiamiamole mappe digitali, tecnicamente dei modelli di elevazione del terreno, in cui per diversi periodi storici abbiamo ricostruito appunto le altezze sul livello del mare dei diversi della superficie su cui camminavano i nostri antichi progenitori. Quindi uno si trova in un punto a Padova, idealmente potrebbe sapere un metro sotto di lui camminavano nel 700, non so, un metro sotto di lui, nell'età del ferro 10 metri sotto di lui, e più o meno, insomma, questo è il tipo di informazione puntuale che voi riuscite a dare. Come l'avete ricostruita questa stratigrafia, chiamiamola così? Questo lavoro è stato possibile grazie al ricco archivio di dati archeologici presente a Padova, che deriva da una lunga serie di scavi di emergenza, per lo più, cioè fatti in concomitanza di opere edili, scavi nel sottosuolo, raccolti dalla Soprintendenza archeologica e a cui noi abbiamo potuto avere accesso appunto grazie alla collaborazione con la Soprintendenza stessa e con gli archeologi, ricordo la dottoressa Gamba. Cioè trovavano, per esempio, appunto facevano lo scavo, a un certo punto a una certa profondità trovavano segni di fuochi, i focolai, piuttosto che cocci, i famosi cocci o cose lì. E ogni volta veniva presa nota di queste cose. Noi dagli archivi della Soprintendenza abbiamo estratto dei particolari elementi archeologici, quali appunto focolari, come ricordava, strade, pavimentazioni, cioè tutti quegli elementi che davano proprio la... questa informazione sul livello stradale, certo. Esattamente, relativi a dove loro camminavano, vivevano, dormivano. E l'importante è che questi elementi dovevano avere delle quote associate che fossero valide, validabili e che fossero quindi, come dire, precise, di buona qualità, prese in maniera accurata. E questo effettivamente è stato fatto negli anni con l'attività della soprintendenza che ha vigilato il lavoro degli archeologi che hanno appunto preso delle misure accurate. Voi quindi siete partiti da questi dati, che cosa avete fatto? Abbiamo inserito questi dati all'interno di un sistema informativo geografico e partendo da tutta questa 117 punti disponibili nel centro storico di Padova riferiti a 31 scavi archeologici, abbiamo eseguito delle interpolazioni in ambiente digitale, come abbiamo provato diversi modelli di interpolazione e alla fine abbiamo appunto siamo orientati verso quello che ci sembrava più efficace. Ecco, interpolazione vuol dire ricostruire una superficie a partire da dei punti di campionamento, no? Sapete, in 100 punti livelli ricostruite la superficie cercando delle curve che l'approssimino bene, diciamo così. Esattamente, applicando degli algoritmi che sono diversi, hanno dei pro, dei contro, e applicando quelli che ci davano più sicurezza nei risultati. Ecco, e già questo ha prodotto immediatamente, diciamo, qualche scoperta, chiamiamola così. Avete capito delle cose nuove su Padova? Certamente, abbiamo capito un po' come si è evoluta nel tempo, non abbiamo parlato del tempo. I nostri dati partono dall'età del bronzo, quindi dalla fine dell'età del bronzo, quando in realtà gli insediamenti erano molto sparsi e sostanzialmente erano tutti appoggiati sulla pianura alluvionale, dove è Padova, diciamo, certo, che ancora adesso circonda Padova. Poi abbiamo siti dell'età del ferro ed età romana. Noi ci siamo fermati nelle nostre elaborazioni al secondo secolo dopo Cristo. Mm-hmm. Era in questo periodo che avevamo i dati più significativi. E forse quindi anche il periodo più difficile da ricostruire, tra l'altro. Insomma, più si torna indietro, di solito più è difficile avere informazioni. Certamente, ed era insomma la parte costituente della città. Allora abbiamo capito in quali zone la città si è sviluppata tra un momento e l'altro durante questi diversi momenti. Fasi, certo. che abbiamo preso in considerazione. Anche sulla base dei vincoli geografici che cambiano, fiumi che si spostano, opere che spostano i fiumi e cose di questo genere. Senta, quali sono le ricadute applicative oltre alle conoscenze che vengono apportate in termini appunto di conoscenze archeologiche di un sistema di questo genere? Perché ci sono anche delle ricadute molto pratiche che possono interessare la governance, no, di tutti i giorni. Ci sono, perché adesso appunto sulla base di questi risultati, di questi modelli, noi abbiamo la profondità, per esempio, del periodo romano imperiale. Noi sappiamo in ogni punto all'interno di questo chilometro e mezzo quadrato che è il centro storico di Padova, noi sappiamo a quale profondità possiamo aspettarcelo. Qual è l'interesse di questo? L'interesse è che nel momento in cui io devo fare degli scavi nel sottosuolo per costruire un garage, per le fognature o per tutto quello che potete immaginare, noi possiamo appunto avere una stima di quanto sono spessi i depositi archeologici, a quale profondità possiamo trovare delle strutture rilevanti, che sono interessanti di per sé, ma soprattutto per il cittadino sono interessanti perché molte volte possono rallentare i lavori stessi. Certo. Quindi questi dati sono disponibili per le fasi anche di progettazione delle opere. Certo, e tra l'altro ecco quello che avete costruito non è un database rigido, ma è qualcosa che potrà continuare a essere aggiornato in futuro, cioè ogni volta che si fa un nuovo scavo c'è la possibilità di aggiungere questi dati e migliorare la precisione con cui voi riuscite a ricostruire questo piano. Certamente il grosso problema con cui ci siamo scontrati fin dall'inizio era la densità dei dati. Tanti più dati, tanto più accurate saranno i nostri risultati, e via via che appunto nuovi scavi vengono fatti possiamo aumentare il database, lanciare di nuovo l'algoritmo, fare l'interpolazione ed avere dei risultati che si vanno via via affinando. Senta, futuri sviluppi, avete qualche idea al di là appunto di questo servizio che potete dare alla pubblica amministrazione, che di fatto è già un dato di fatto, sbaglio? Sì, beh, lo è, nel senso che sono appunto tutti dati. Sono dati disponibili, quindi. All'interno del sistema informativo geografico, dati pubblicati, dati validati scientificamente, e quindi è tutto disponibile in un formato anche facilmente fruibile dalla pubblica amministrazione, dai professionisti. Come sviluppi futuri, potrebbe esserci anche una possibilità di accesso a questi dati anche ai singoli cittadini. L'idea di sviluppare un'app in cui magari muoversi sulla città sapendo a che profondità sono i diversi livelli potrebbe essere un'idea. E come approfondimenti c'è la parte medievale che non è stata affrontata in questo lavoro, che certo. Potrebbe essere affrontata, e si potrebbero applicare anche delle altre tipologie di indagini non invasive, quali ad esempio le indagini geofisiche, per aiutare ulteriormente il riconoscimento nel sottosuolo di strutture e quindi anche qui accrescere la capacità di queste interpolazioni. Insomma, forse un giorno verremo a Padova per viaggiare nel tempo, potrebbe almeno virtualmente. Sarebbe molto bello. Grazie. Grazie a lei. Anche per questa sera è tutto. Smart City torna come sempre lunedì. Buon fine settimana.